e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, so che negli ultimi tempi ti ho fatto appassionare agli investimenti nell'arte con alcune puntate di Cuore e Denari appositamente dedicate al tema. È vero. Però la notizia da cui voglio partire stamattina credo che ti invoglierà ancora di più ad arricchire la tua casa di dipinti, sculture, qua, oggetti, vedi, in bronzo, il mio busto in marmo all'ingresso. Quello è già, okay, lo sto già facendo preparare, un bustino. Sì, no, beh, sai che la mia dimensione è notevole, infatti, ti va via un sacco di busto, marmo perché? Di Carrara, ci vuole una cava. Allora, spende 80 euro, ne guadagna 20.000. Senti qua la fortunata storia di questa signora di Agrigento. Mm-hmm. È tutto cominciato quando qualche mese fa la signora ha acquistato un quadro in una galleria espositiva nel centro di Novara, quindi si era pure fatta il viaggetto. Vicino a noi. Aveva fatto questo piccolo investimento di 80 euro. Dopo il soggiorno fuori città è tornata a casa, perché uno ad Agrigento dove va in vacanza? A Novara. Tornata a casa, lo ha raccontato il giornale online Agrigento News, Agrigento Notizie, mentre stava appendendo il nuovo acquisto al muro, la signora ha fatto una scoperta che l'ha lasciata di stucco. Tra la cornice e la parte retrostante da tela era nascosto un bot dal valore di 100 lire, datato 1937, con la clausola al portatore, quindi ha potuto cambiarlo. E sono diventati 20.000 euro. Peraltro dovrei fare una trasmissione anche su questo. Se trovi un bot così vecchio, come fai a cambiarlo? E se la banca ti contesta? Vedi quante idee mi vengono? Vedi, questo ritrovamento. Soprattutto dove vai a cercarlo? Un bel investimento di cui la signora, visto che giochiamo sempre tanto sulla consapevolezza, ma qua proprio consapevolezza zero. Senti, come a dire l'altro lato della medaglia, perché? Qua proprio ci sta a fagiolo, no? Quando tu hai letto la notizia, ho pensato a una frase, forse la potremmo attribuire, però metto dei punti interrogativi a Daniel Barenboim, mm-hmm. Che diceva: ogni grande opera d'arte ha due facce, una per il proprio tempo e una per il futuro, per l'eternità. E sicuramente i denari che si è trovata la signora di Agrigento l'aiuteranno a vivere molto serenamente, insomma, direi abbastanza. La sono sempre 20.000 euro. Assolutamente, salutiamo la nostra nuova amica di Agrigento. Quando viene a Novara, magari si fa una capatina a Milano, noi le offriamo volentieri un caffè. Si chiama Macuna pruriens, è un legume molto utilizzato nelle aree equatoriali. Chissà che cosa vuol dire questo lapsus, legume-legame. Perché ha un legame? Adesso ve lo spiego. E allora, questo legume è detto anche il legume dei poveri, no? È molto utilizzato nelle aree equatoriali, ma potrebbe venire utilizzato come medicina. Lo studio è italiano e dimostra che la Macuna pruriens potrebbe essere usata come terapia contro il Parkinson, quindi almeno nelle zone del pianeta in cui non è disponibile, il medicinale potrebbe essere sostituito da questo legume preparato ad hoc. Perché? Perché contiene levodopa. Ne parliamo con il professor Gianni Pezzoli, direttore del centro Parkinson, che ha condotto lo studio. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Allora, in realtà è un fagiolo. No, beh, più o meno un legumino, che forma? Un fagiolo, mi hanno corretto più volte i botanici, sta tra un fagiolo e una fava. Sì. Ecco, si chiama Macuna pruriens. Sì. Cresce nelle aree subtropicali, non è utilizzato affatto da loro se non come concime chimico, perché contenendo, questo lo si sa a posteriori naturalmente, contenendo levodopa, dopamina, se uno ne mangia un piatto pieno, finisce che delira. Sì. Quindi bisogna utilizzarla naturalmente con cognizione di causa. Se invece questo fagiolo viene lasciato in acqua e diciamo con 10-15 lavaggi, si vede che l'acqua diventa scura, nera, perché si trasforma la dopamina, si trasforma in melanina. E finalmente diventa edibile, cioè sì, si può mangiare. Però anche in Africa viene considerato, è stato considerato fino ad ora un concime, perché attira dell'azoto e quindi arricchisce il terreno di azoto. Ma il vostro studio ne ha studiato le proprietà? No? Come? Il nostro studio è stato rivolto al fatto che ci sono milioni di persone in giro per il mondo, purtroppo in aree povere, che non possono permettersi, persone affette da Parkinson o da sindromi correlate, che non possono permettersi l'utilizzo di levodopa, cioè di dei farmaci che contengono la levodopa, che hanno un costo più o meno di un dollaro e mezzo al giorno. Però se pensiamo, noi abbiamo lavorato in Ghana, in Zambia e in Bolivia, pensiamo che in queste aree lo stipendio medio mensile è di 80 euro per chi lavora. Ecco, quindi tanto dato che siamo a cuore denari, quindi il professor Pezzoli giustamente ci dà anche questa indicazione, Deborah. Quindi, professore? Naturalmente la terapia non è accessibile, se non ad alcuni fortunati che hanno delle rendite superiori. Quindi noi abbiamo cercato, abbiamo iniziato questa collaborazione con l'Africa oramai una decina d'anni fa, anche qualcosa di più, e cercavamo proprio la malattia, perché c'era persino il dubbio che la malattia di Parkinson non fosse presente in Africa. Invece c'è come in Europa, più o meno con la stessa frequenza. Però si trovano, ed è questa una cosa molto interessante, è stata interessante per noi, vediamo pazienti non trattati, senza farmaci, cosa impossibile oramai in Europa, certo, da vedere, che non possono permettersi l'acquisto del farmaco. Noi, la Fondazione Grigioni, che io dirigo, aveva deciso di sostenere almeno un centinaio di pazienti. Poi dopo abbiamo avuto molto successo nella nostra raccolta di pazienti, e quindi soltanto in Ghana ce ne sono già 600-700, quindi è logico che il sostegno da parte di una fondazione esterna diventa esagerato, impossibile. Quindi abbiamo cercato una fonte facile, di basso costo, e abbiamo sviluppato una metodica semplicissima che prevede semplicemente ovviamente l'acquisto della mucuna, che può costare come terapia in un uomo, non so, 5-6 dollari in un anno, quindi un sacco di mucuna pieno di 30 kg di mucuna. E poi come la lavorate adeguatamente? Viene messa semplicemente in padella, viene fatta rompere come si rompono i popcorn, viene macinata e si danno, questo io, 4 cucchiai al paziente, il quale si dà bloccato, si alza e cammina come se fosse stato miracolato. Ma è straordinario, professor Pezzoli, lei ce la sta raccontando come una cosa assolutamente naturale. Prendi questo legume che in natura non può essere consumato, perché insomma può creare degli effetti collaterali pesanti, tanto che viene utilizzato come fertilizzante, lo tratti e gli effetti sono possiamo dire del tutto simili o quasi simili a quelli dei farmaci. Sono sovrapponibili. Adesso stiamo per pubblicare un secondo lavoro, diciamo con criteri scientifici, quindi un doppio cieco, si chiamano doppio cieco randomizzato controllato, in cui si vede che addirittura la mucuna, non so per quale ragione, faccia sbloccare il paziente prima addirittura del farmaco, perché poi onestamente queste sementi contengono quantità di molecole che noi non conosciamo del tutto. Ci sono probabilmente molecole che favoriscono ancora l'assorbimento della levodopa, e quindi è persino migliore in certi casi dello stesso farmaco. Perché la natura fa le cose per bene, professor Pezzoli, possiamo dire. Fa sempre delle cose che è interessantissimo andare a indagare, perché si può solo imparare. Professore, allora, io immagino che i familiari di persone con Parkinson, sentendo il suo intervento a cuore denari, ci chiameranno per sapere se è disponibile anche in Italia, quando arriverà, come fare per. Professore, rispondiamo già alle domande che stanno arrivando. Ma si trova in Italia, quando, come, perché? Al momento no, naturalmente. Professore, prima di passare la linea alle informazioni sul traffico, una battuta? Sì, allora, ovviamente si può trovare su internet polvere di mucuna, oppure dei farmaci o sostanze che contengono piccole quantità di polvere di mucuna. Stiamo cercando di sviluppare anche per l'Italia la vendita della mucuna. Non è che noi siamo purtroppo, non abbiamo problemi di questo genere, siamo ricchi, per cui ci compriamo i farmaci. La mucuna stiamo cercando di studiare secondo le leggi, ci sono delle partite da importare fisse, perché poi ci sono delle varie. Insomma, l'idea non è subito pronta, ma ci state lavorando, possiamo dire così, lavori in corso. Ecco, e meglio però per i pazienti parkinsoniani usare ancora la farmacologia tradizionale. Grazie professor Pezzoli, ci tenga informati, noi andiamo senz'altro alle informazioni sul traffico. E volevo dirti, Debra, avrei una proposta che non è indecente. Sentiamo. Guardatevi, e guardati anche tu, io l'ho già fatto, i piedi. Se siete in piedi, osservate la vostra postura. Schiacciate con il dito intorno alla caviglia e osservate cosa vedete. È un semplice autotest per valutare la vostra circolazione, di cui parleremo. Sì. Posso seconda... già anche qual è la notizia che ti ha alluzzato? Com'è che dici tu? Alluzzato. Sì, me la ricordo, ma non la diciamo. Dai. È verde. Esatto. Come il nostro numero. Se viaggerete prossimamente con la ex compagnia di bandiera, c'è una notizia che ci ha incuriosito tutti in questi giorni. Cuore e denari. Abbiamo la veloce rassegna stampa di denari. Le borse in accelerazione questa mattina finalmente si prendono una pausa dopo 5 sedute governate dai timori per gli esiti del referendum sulla Brexit del 23 giugno e anche dalla pressione sui bond periferici con il rendimento sul Bund, il titolo decennale tedesco che ieri è sceso sotto zero. Milano guadagna 2 punti percentuali, sono in vigoroso rimbalzo, circa 5 punti molti titoli del comparto bancario. Guida Monte dei Paschi guadagna 5 punti, più 5 UbiBanca, Mediobanca, più 4 punti e mezzo Pop Emilia Romagna e Unicredit. Abbiamo due titoli negativi adesso, Ferrari e Anima Holding. L'euro a 1,1221. Oggi l'attenzione si sposta sugli Stati Uniti, dove termina la riunione della Federal Reserve. Nella nostra rassegna stampa un piccolo riassunto anche di una notizia molto importante che interessa tantissimi lavoratori. Oggi l'avrete letta su tutti i giornali, ma ci ritorniamo. Il ministro del lavoro Poletti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Nannicini ieri hanno illustrato ai sindacati nel secondo round su previdenza e lavoro le linee guida dell'APE, l'anticipo pensionistico. Come funzionerà? Noi intanto vi diciamo subito che si parte a gennaio 2017 e ribadisco se si farà, perché ci sembra onestamente un'operazione abbastanza originale sulla quale auspichiamo una seria riflessione se non un ripensamento. A bocce ferme chi anticiperà volontariamente l'uscita dal lavoro di 3 anni rispetto alle soglie di vecchiaia potrà far leva sul nuovo prestito pensionistico bancario da rimborsare in 20 anni. La rata potrà produrre una riduzione fino al 15% della pensione piena potenziale. Naturalmente c'è un occhio di riguardo per quei lavoratori che si troveranno in una situazione disagiata, ad esempio i disoccupati di lungo corso che vedranno ridursi al minimo, se non addirittura azzerata, la decurtazione dell'assegno grazie ad una serie di detrazioni fiscali. A derogare l'assegno anticipato sarà l'INPS. Oggi tutti i dettagli ci sono sul Sole 24 Ore, che ricordiamo è in edicola anche con il secondo numero dell'inserto, l'economia per la famiglia, che oggi si intitola Crescete e moltiplicatevi. Ci sembra quasi, Nicoletto, un messaggio biblico, però insomma carino. Allora, c'è qualche novità che riguarda l'impegno più gravoso del periodo, cara mia. Il pagamento delle tasse. Ti fanno male, eh? Allora, se per la proroga dei pagamenti di imposte e contributi derivanti dal modello unico 2016 non c'è ancora certezza, a 2 giorni dalla scadenza del Tax Day del 16 giugno, per la sola presentazione del modello 730 all'Agenzia delle Entrate invece c'è un rinvio dal 7 luglio al 22 luglio, che ormai è ufficiale. Allora, ci dice qualcosa di più Giovanni Parente del Sole 24 Ore, che salutiamo. Giovanni, benvenuto. Buongiorno. È una buona notizia per i contribuenti oppure neutra? E come mai si è reso necessario questo slittamento? Beh, il problema è che siamo ancora in fase di rodaggio della dichiarazione precompilata, quindi in qualche modo è il secondo anno e si sta ancora in qualche modo cercando poi di mettere un po' tutto a posto. Giovanni, scusami, sei in una caverna con il telefono perché ti sentiamo non benissimo. No. Ecco. Potresti avvicinare un po' meglio la bocca alla... Esatto. Grazie. Mi sentite meglio adesso? Sì, un po' meglio. Ok, grazie. Allora, no, come dicevo, è ancora il secondo anno della dichiarazione precompilata, ci sono ancora tante cosettine da mettere a posto, i dati non sono ancora tutti precisi e ben puliti, come abbiamo raccontato spesso anche qui a Cuore e Denari, quindi anche per quest'anno, come era successo l'anno scorso, c'è stata una proroga del 7.30. Come funziona la proroga del 7.30? Il termine ultimo per l'invio del 7.30 è spostato dal 7 al 22 luglio. Chi riguarda questa proroga? Esatto, riguarda chi, perché non riguarda chi, me, La Rosciani, no, no, che la dichiarazione dei redditi deve averla fatta, aver già trasmesso tutto quello che doveva trasmettere al commercialista o al sostitutore imposta se lo fa l'azienda, no? No, esatto, non riguarda il sostituto imposta, ad esempio. Chi riguarda chi si rivolge al CAF o al professionista abilitato, a condizione che però questo CAF, il professionista abilitato, abbia inviato almeno l'80% tutte quante le dichiarazioni che ha lavorato entro il 7 luglio. Poi c'è un'ulteriore categoria di soggetti a cui che interessati a questa proroga, e sono coloro che inviano in autonomia con il fai da te il 730 precompilato. Quindi io potrò modificare, accettare, integrare il mio 730 precompilato fino al 22 luglio. Questa è la seconda categoria di soggetti. Poi permettimi di aggiungere una cosa, oltre al 730, tu prima mi citavi i versamenti di imposta. Lì non abbiamo il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiamo un comunicato legge, come definiamo spesso, su norme e tributi, perché ieri il Ministro dell'Economia ci ha fatto sapere che ci sarà appunto la proroga dei versamenti risultanti dal modello unico fino al 6 luglio, però soltanto per i soggetti che compilano istituti di settore più altre piccole categorie, certo, di contribuenti. Insomma, ci aggiriamo intorno ai 3,6-3,8 milioni di contribuenti. È una notizia buona soprattutto per gli istituti professionali che in questo momento sono intasati di adempimenti, perché il tax day del 16 giugno insomma li coinvolge appieno, certo, perché sono anche tutte le scadenze legate ai versamenti per la casa. Per gli ascoltatori, esatto, che ce lo stanno chiedendo, segnalo che invece per chi presenta il 730 restano invariate le modalità di conguaglio delle imposte o a credito o a debito nei cedolini relativi al mese di luglio, agosto per i pensionati. Giovanni, grazie per essere stato con noi. Appunto, abbiamo capito che non si tratta di una proroga generalizzata ma circoscritta, sulla quale abbiamo fatto chiarezza. Noi tra un po' dobbiamo andare in pausa perché c'è il giornale radio. Volevo solo segnalare che è in corso di presentazione a Roma, c'è la relazione annuale dell'IVAS, che è l'autorità di controllo sul mercato assicurativo. Vedo già i primi lanci di agenzia da cui emergono le notizie più rilevanti di questa presentazione. Si parla in Italia ancora di un caso RC Auto con premi più alti rispetto ad altri grandi paesi europei di almeno 150 euro, quindi tu per assicurare la tua auto, Nicoletta, paghi 150 euro in più rispetto a quanto non succeda, non so, in Francia, in Norvegia e in altri paesi d'Europa. Lo dice proprio il presidente dell'IVAS Salvatore Rossi nell'intervento alla presentazione della relazione annuale dell'autorità. Il caso non è risolto, ma allo stesso tempo ci sono segnali di miglioramento, e allora dovremmo ritornare anche su questo tema. Speriamo, andiamo al GR. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Cuore e denari. Allora, parliamo di nuovo di soldini, pagamenti in contanti, con la carta di credito, con il bancomat, un tema sempre molto vivace, no? Perché in Italia, come sapete, c'è il grande dibattito sul fatto che gli italiani ancora non hanno tutta questa grandissima confidenza con lo strumento elettronico di pagamento, e poi contestano anche il fatto che quando si presentano al negozio per pagare con carta o bancomat, ancora molti commercianti respingono un po' questa idea. Hanno tutte le loro ragioni, perché pagano delle commissioni assolutamente alte al sistema bancario per consentire appunto ai propri clienti di effettuare il pagamento secondo questa modalità. Perché torniamo a parlare oggi? Perché ci ha colpito una notizia che abbiamo visto pubblicata da sui siti di alcune associazioni dei consumatori che raccontavano come sia entrata in vigore il 9 giugno, quindi settimana scorsa, l'ultima tranche di un regolamento europeo, il 751 del 2015. È un regolamento che riguarda le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento effettuate con carta di debito, bancomat e carta di credito. Allora, appunto, alcune associazioni dei consumatori dicevano: grazie all'entrata in vigore di questa ultima parte di questo regolamento europeo, i commercianti adesso non hanno più scuse, perché grazie a queste nuove norme le commissioni da loro pagate agli istituti di credito si sono ridotte, c'è un tetto, e quindi adesso questi risparmi devono trasferirsi anche sui consumatori, a cui devono essere consentiti tutti i pagamenti secondo le modalità che vogliono, appunto con la moneta elettronica. Tutto vero, in realtà non è esattamente così, per cui abbiamo voluto fare un po' di chiarezza. E abbiamo chiamato intanto un'amica di Cuore e Denari, Anna Vizzeri, dell'Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E poi salutiamo anche i soliti accusati di tutto, Luciano Gaiotti, direttore centrale politiche e servizi per il sistema, appunto, di Confcommercio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie anche a lei. Grazie. Naturalmente io sentirei anche un po' fare un po' di sondaggini fra i nostri ascoltatori. Vi capita spesso di vedervi rifiutare da un negoziante la possibilità di pagare con carta o bancomat? Con quali motivazioni vi viene, appunto, spiegata la mancata accettazione? Vi è capitato di recente, oppure siete proprio voi che preferite ancora continuare ad andare in giro con il portafoglio zeppo di banconote, ricordandovi, l'abbiamo già fatto ieri, che quella da 500 euro non la potete più utilizzare. Allora, Anna Vizzari, il numero verde è sempre lo stesso, Nicoletta, mi pare che non sia cambiato nulla, anche no, se lo lanciamo un po' meno frequentemente, però voi potete comporlo e intervenire in trasmissione, ci fate sempre piacere. Esatto. 800 24 00 24, è proprio verde come l'argomento di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione. Insomma, se avete un paio di calze verdi, indossatele e fatevi una foto e magari noi andate la a fare anche un colloquio di lavoro presso la nostra compagnia aerea, che magari vi prendono. Devono essere velate e graduate, ecco. Però Anna Vizzari, lei le indossa di quel colore pessimo? Non è proprio il mio colore preferito. Ecco. Okay. Andiamo ad argomenti un po' impegnativo. più esatto. Familiari a lei. Allora, ricostruiamo la vicenda dalla quale siamo partiti, dottoressa Vizzeri, il tema del costo delle transazioni interbancarie, no? È da tempo sotto i riflettori degli organismi comunitari. Novità, noi ne avevamo già avute ad inizio dicembre. Mi ricordo che proprio su questa storia di questo regolamento avevamo organizzato una trasmissione. Allora, quali aggiustamenti ulteriori sono arrivati in questi giorni e con quali ricadute sul sistema bancario, del commercio e dei consumatori? Allora, il regolamento 751 del 2015 dell'Unione Europea è entrato in vigore in parte il 9 dicembre del 2015, per la parte probabilmente più interessante, che è quella che fissa un tetto alle commissioni di interscambio, per cui queste commissioni, che sono quelle sostanzialmente che vengono pagate ai circuiti dalle banche quando si accettano pagamenti elettronici, hanno adesso un tetto che pari a massimo lo 0,3% se il pagamento viene fatto con carta di credito, o massimo allo 0,2% se il pagamento è fatto con carta di debito o carta prepagata. Quindi sono le transazioni, cioè commissioni interbancarie che il sistema paga a se stesso praticamente, è un circuito interno. Sostanzialmente quando si utilizza il POS, diciamo che la banca emittente paga ai circuiti una determinata commissione. Questa commissione ha adesso un tetto massimo, è entrato già in vigore dal 9 dicembre scorso. Cosa è successo? Che il 9 giugno effettivamente è entrato in vigore definitivamente una seconda parte del regolamento, quindi alcuni articoli del regolamento che sostanzialmente riguardano più che altro la trasparenza delle operazioni di pagamento, per cui è detto per esempio che l'esercente dovrebbe ricevere per ogni operazione di pagamento dalla banca un dettaglio dell'operazione che evidenzi bene anche quali sono le commissioni di interscambio e quali sono le commissioni invece pagate per il servizio alla banca stessa. Quindi sono tutte delle, diciamo così, delle operazioni che vanno, delle novità che vanno a toccare la trasparenza delle operazioni fondamentali, devo dire, anche per favorire il confronto e quindi capire chi fa pagare di più. Quindi però, significa, no, anche per chiarirlo ai nostri ascoltatori, poi so che è un punto su cui ci tiene molto anche a dire la sua Luciano Gaiotti, non sono state ridotte le commissioni che un esercente paga alla propria banca per consentire di effettuare i pagamenti con la moneta elettronica. Ecco. No, devo dire che in realtà speravamo speravamo che ci sarebbe stata una riduzione di queste commissioni, perché appunto le commissioni di interscambio fanno parte di quella, del pacchetto commissioni pagate all'esercente, quindi è indubbio che se si riducono, secondo questo tetto, si dovrebbero ridurre anche le commissioni che l'esercente paga. In realtà, da quello che abbiamo visto, queste commissioni non si sono poi così ridotte dal 9 dicembre ad oggi, e quindi in realtà sicuramente l'esercente non ha avuto dei benefici diretti da questo regolamento al momento, anche se in realtà dobbiamo ricordare che delle disposizioni di legge che sono presenti in Italia fin dal 2012 prevedevano in realtà che le commissioni che gli esercenti vanno a pagare dovrebbero essere proporzionate ai costi sostenuti dagli operatori per il pagamento. In realtà è quindi evidente che se i costi per gli operatori, quindi le commissioni di interscambio, si riducono, si dovrebbero ridurre anche le commissioni per gli esercenti. Al momento però nel nostro mercato, che evidentemente è un po' distorto, la situazione non c'è stata, cioè questo trasferimento non c'è stato. Ci manca sempre un pezzettino. Vedo intanto già tantissimi ascoltatori che sono pronti ad intervenire all'800240024 e chiaramente anche l'utilizzo di WhatsApp è molto intenso. E ci scrivono anche dalla Cina. Ma dai, solo per dire quanto siamo indietro in Italia. Io vivo in Cina, ci scrive Marco, e non uso neppure più la carta. La commessa cosa passa, paga con la forza il del pensiero del codice sul suo telefono e voilà. Ci arriveremo, perché Anna Vizzare mi ha suggerito di fare anche un piccolo approfondimento su questo argomento, che in realtà meriterebbe una puntata a sé stante, e la faremo, ma adesso ci arriviamo gradualmente. Prima però volevo sentire Luciano Gagliotti, Confcommercio, perché io penso che potrete assumere Anna Vizzare anche presso i vostri uffici, visto come dire, la chiarezza con cui ha spiegato tutta la situazione e vi ha anche un po' giustificato nel fatto che proprio non ce l'ha fatta ad abbattere gli oneri applicati appunto all'utilizzo dello strumento elettronico di pagamento. Come vivete voi tutta questa vicenda, ancora tutta questa applicazione graduale di questo regolamento e il fatto che vi continuano ancora ad accusare di non voler rendere un po' più flessibile appunto la possibilità per i consumatori di pagare con carta o con bancomat? Guardi, intanto voglio dire, ringrazio la di Consum per il comunicato. No, di è altro ieri, consumo, che... per carità, non mi faccia fare questa. Insomma, di Consum per per il comunicato iniziale da quale abbiamo preso spunto, che però non era molto chiaro, devo dirlo. Il punto è che, nonostante l'imprecisione, insomma, dà l'opportunità per fare un po' di chiarezza, perché si scambiano le commissioni interbancarie con le commissioni pagate dal commerciante, che sono due cose decisamente diverse. Commissioni interbancarie, come dice il nome, attiene al sistema bancario. Sono commissioni che si scambiano la banca che gestisce il POS con la banca che emette la carta. Altro tema invece sono le commissioni pagate dal commerciante. Ovviamente le commissioni pagate dal commerciante inglobano le commissioni interbancarie, che è una parte di costo importante, però non coincidono, primo punto. Il secondo è che il regolamento europeo fissa sì dei tetti massimi a queste commissioni, ma non prevede alcuna forma di automatismo nella riduzione delle commissioni pagate dal commerciante. E questo è l'altro. Vorrei fare un esempio numerico perché così capiamo, credo, facciamolo meglio. Perché so che voi monitorate sempre i vostri associati, proprio su tutti questi argomenti. Ho una ricerca fresca da che stiamo monitorando, magari vi posso dare dei numeri in anteprima mondiale, in anteprima nazionale, diciamo così. Allora, prima del regolamento la commissione interbancaria era più o meno lo 0,70-0,75 e una commissione media pagata dall'esercente era intorno all'1,4. Allora, l'aver stabilito che lo 0,7 diventa massimo 0,3 è sicuramente importante perché toglie 0,4 di commissione, ma non significa che automaticamente l'1,4 diventa 1. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro. Perché le banche non adottano un comportamento proattivo nei confronti dei loro clienti, cioè non è che chiamano i clienti e gli dicono guarda, siccome c'è questa cosa adesso ti abbasso le commissioni. E proprio su questo tema, cioè in teoria dovrebbero farlo, potrebbero farlo. Ma Gagliotti, ti ricorda quando aumentavano i tassi di interesse? Non è che aumentavano automaticamente, oppure come la questione della benzina, che quando la benzina, quando le quotazioni internazionali del petrolio aumenta alla pompa immediatamente l'aumento si trasferisce, al contrario non si sa perché si irrigidisce sempre tutto il meccanismo di trasmissione dei benefici. Esatto, quindi il mondo va così, non sorprendiamoci. Allora, noi stiamo monitorando chiaramente questo fenomeno. Abbiamo proprio fatto nel mese di aprile, lo scorso mese di aprile, quindi è una cosa recentissima, un'indagine su 1500 commercianti che rappresentano il mondo del terziario, quindi del commercio, del turismo, dei servizi, per capire proprio la loro relazione col sistema dei pagamenti. Allora, uno dei temi era proprio se conoscevano il, diciamo, la nuova norma, il nuovo regolamento e come si erano comportati. Bene, allora, la loro sintesi del, diciamo, dei risultati. Il 54% non conoscono il nuovo regolamento, quindi non sanno di cosa stiamo parlando. Bene. Il 28% ne sono a conoscenza, quindi in qualche maniera, voglio dire, hanno appreso la notizia, ma non si è rivolto alla propria banca. Allora, se sommiamo il 54 più il 28, siamo all'80%. Anche perché magari, anche se non c'è un meccanismo automatico di trasferimento della riduzione appunto dei costi, si può comunque, in virtù di questa notizia, andare in banca, certo, e trattare un pochino, certo, sulla base, certo, della conoscenza. Ecco. Diciamo che questo 28%, no scusi, il 54 più il 28 fa l'80, quindi avevamo detto 8 su 10... In qualche maniera sono fermi al palo, non si, ecco, sono mossi. Gli altri? L'11%, quindi 1 su 10, è a conoscenza, è andato dalla propria banca e è riuscito a spuntare una riduzione. Ecco. Sono prevalentemente medie e grandi imprese residenti nelle regioni, certo, del nord-ovest. Che però insomma fanno una mole magari di transazione considerevole, quindi hanno una capacità, certo, anche di trattativa differente rispetto a un piccolo bar. Punto economico e quindi, ecco, si muovono ovviamente. L'altro 10%, quindi l'altro 1 su 10... sostanzialmente si è rivolto alla propria banca, quindi lo sa, è a conoscenza, si è rivolto alla propria banca e o non ha ottenuto nessun risultato perché magari ha un transatto piuttosto basso, quindi alla fine non ha questo potere negoziale nei confronti della banca, oppure è in attesa di una risposta. Morale della favola, 1 su 10, secondo questa indagine, che ripeto è rappresentativa dell'impresa del terziario, si è effettivamente mossa e ha portato a casa un risultato di riduzione. Quindi, ha una cinghia di trasmissione molto lenta questa, esatto, che va attivata in via individuale appunto dal commerciante, non c'è appunto un meccanismo, ecco, automatico, ribadisco, esatto, di trasferimento. Noi come associazione chiaramente stiamo facendo delle azioni sia per informare i nostri soci, sia per fare delle convenzioni con le banche, esatto, che un accordo con l'ABI magari complessivo forse andrebbe, esatto, fatto, Gagliotti, esatto, in maniera tale che non sia il singolo commerciante che si deve misurare con la propria banca, ma che ci sia una convenzione nazionale che stiamo mettendo appunto, proprio per cercare, allora, di aumentare, diciamo, o meglio ridurre l'inerzia nel trasferimento al commerciante di questa riduzione. Certo. Un'altra occasione in cui avevamo parlato di questo argomento era stato in dicembre, quando con la legge di stabilità era stato introdotto questo emendamento che rendeva obbligatorio, sempre per i commercianti, accettare appunto l'utilizzo della carta di credito oppure del bancomat per pagamenti molto piccoli. Anna Vizzari, che fine ha fatto quel provvedimento? Se io vado al bar qua davanti, ordino due caffè, posso chiedere di pagare con il bancomat per 2,20 euro, che sarà appunto il costo di entrambi i caffè che ci prendiamo io e Nicoletta se andiamo fuori? Allora, sicuramente si può chiedere, nel senso che nulla lo vieta, però è assai probabile che la risposta sia no, non accettiamo il pagamento con carta. Nel senso che effettivamente la legge di stabilità ha introdotto questo obbligo, ha esteso un obbligo che era già previsto dal 30 giugno 2014, allora si prevedeva semplicemente l'accettazione di carte di debito di importo superiore ai 30 euro, per pagamenti di importo superiore ai 30 euro, oggi invece si parla anche di carte di credito e in realtà non c'è nessuna indicazione di un importo per cui questo obbligo è previsto, quindi in realtà potenzialmente qualsiasi tipo di pagamento di qualsiasi importo sia dovrebbe essere pagato, cioè il consumatore dovrebbe poterlo pagare anche con carta. In realtà è tutto bloccato perché appunto manca un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che doveva essere emanato entro il 1 febbraio. Fantastici veramente, esatto. Emaniamo dei provvedimenti sempre monchi che rinviano tutto a provvedimenti attuativi che non arrivano mai. È veramente... Esatto, peraltro sarebbe un decreto molto importante perché va nella direzione di cui parlava prima l'esperto di Confcommercio, nel senso che il governo dovrebbe in qualche modo intervenire per proprio abbassare le commissioni pagate all'esercente e si fa esplicitamente riferimento alle operazioni di importo contenuto, quelle inferiori ai 5 euro. Uh-huh. Quindi in realtà potrebbe essere un decreto utile appunto per anche convincere in qualche modo gli istituti di credito a ridurre le commissioni pagate all'esercente. Sempre ma lì l'ostacolo. Nulla si sa di questo decreto, certo. C'è un tavolo di lavoro che sicuramente si sarà riunito sull'argomento, però nulla è stato deciso concretamente. Detto questo, in tutto questo gran dibattito, sentiamo come la pensano gli ascoltatori. Volevo chiedere a Marco anche in regia se gentilmente mi prende la telefonata di Daniela da Cuneo che voleva spiegarci appunto... tipo di evoluzione che ha fatto lei per pagare appunto le sue operazioni di acquisto senza utilizzare, senza entrare nella polemica appunto con i commercianti, utilizzando metodi alternativi al contante. Intanto sentirei Rolando da Ferrara che saluto. Rolando, benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi dato la possibilità di esprimere in una bellissima trasmissione. Bene. Allora, io sono un libero professionista, un agente colpito dal decreto del signor Renzi che ha obbligato a tutti quanti ad avere il almeno il POS, sì. Ok, sia di carta di credito sia di carta di debito. Sì. Il problema che sussiste è questo, il costo che io devo sopportare, 20 euro per ogni POS, io ho tre uffici, quindi sono 60 euro al mese, e poi uno 0,48 per le carte di debito e 1,20 per le carte di credito. Lei fa l'assicuratore, allora, Rolando, però, magari le sue transazioni, detto che non sono giustificate, 20 euro al mese mi sembra veramente neanche fosse una macchinetta da alimentare a benzina, ma detto questo, magari le transazioni che però passano attraverso la sua intermediazione sono anche abbastanza elevate, i premi delle assicurazioni, quindi magari un pochino ammortizza, no? Il problema sussiste in questo modo. Il discorso è che se lei mi viene a pagare una polizza di 1000 euro, dove io prendo a malapena il 10% di provvisione, dove dopo al netto depurato di tutti i miei costi ho il 2,20% di utile netto e ne do 1,20 alla banca, lei come può pensare che io sia arrabbiato oppure contento? Furioso Rolando, la possiamo immaginare. Semplice. Allora, per questo che abbiamo preso la sua denuncia, devo salutarla però perché tra un po' devo ridare la linea a Nicoletta, abbiamo un tema molto interessante da affrontare anche nella seconda parte. Anche Rosario dalla provincia di Forlì Cesena voleva dirci che dal tabaccaio le commissioni sono altissime, ci sono molti ascoltatori che dicono preferiamo rinunciare alla vendita pur di evitare il pagamento con carta o bancomat. Però volevo sentire Daniela da Cuneo, l'ultima frontiera dei pagamenti quale sarà? Quella che si sta in realtà che sta crescendo moltissimo. Daniela, benvenuta. Buongiorno. Allora, io volevo parlarvi di Satispay. Noi a Cuneo paghiamo già col cellulare, adesso so che ci sono anche dei punti un po' in tutta Italia, a partire da Torino, Milano, eccetera. Si può benissimo pagare il caffè, i bar sono molto contenti perché fino a 10 euro non ci sono commissioni a carico dell'esercente. È fatto proprio per i micropagamenti, Daniela, sì, questo esatto, sistema. Grazie, esatto. Sento Anna Vizzari in 30 secondi, come ce lo spiega, poi ci organizziamo con una bella puntata sul cashless, su tutti i micropagamenti fatti con questi sistemi come alternativi. L'hai chiamato? Cashless, cioè senza contante, certo. Sì. In realtà, allora, Satispay è una delle tante app che possono essere utilizzate per pagare sostanzialmente soprattutto spese di piccolo importo ed è molto apprezzato dagli esercenti perché appunto fino a 10 euro non si pagano commissioni e sopra i 10 euro la commissione è di 20 centesimi, certo, qualsiasi sia l'importo. E sostanzialmente è un'app che viene utilizzata da cellulare e si fa sostanzialmente un addebito diretto dal proprio conto corrente al conto corrente dell'esercente, sempre appunto via app, quindi è veloce e viene apprezzato soprattutto sia dagli utenti perché è facile da utilizzare, ma anche dagli esercenti, ma soprattutto dagli esercenti appunto perché riducono le commissioni di pagamento. Gagliotti, le piace questa strada? Assolutamente sì, è un problema di innovazione tecnologica, ecco, è un problema di infrastrutture che non tutti hanno, per chi ha magari un modello anche di telefonino un po' più arretrato, ecco, deve adesso fare questo investimento magari nel telefono nuovo, qui c'è tutta un'altra partita. Nicoletta dice per esempio io Gagliotti, però quella è la strada, cioè non si può continuare a pensare ai modelli vecchi, bisogna innovare e rendere queste commissioni strutturalmente basse o azzerarle, ecco, azzerarle magari Senta, il caso di Rolando da Ferrara, l'assicuratore lo vuole commentare? Beh, guardi, allora, anche i commercianti, io capisco l'ascoltatore da Ferrara, ma anche il commerciante quando paga l'1-1,5% paga anche sull'IVA, paga anche su, diciamo, su importi che non gli rimangono, che poi lui dovrà versare all'erario. Quindi questo è un tema, chiaramente più basso il margine, e questo è un caso, ma è anche il caso per esempio delle ricariche telefoniche, diceva che presso i tabaccai le commissioni sono alte, ma sono alte proprio perché quello che resta in tasca al commerciante per quelle merceologie è talmente basso perché di fatto lui sta facendo un incasso per conto di qualcun altro. Esatto. Però paga le commissioni sull'intero ammontare. Questo non è non va bene. E siamo d'accordo. Allora vi assisteremo, vi accompagneremo, vi porteremo per mano in questa battaglia. Voi intanto teneteci sempre al corrente di tutte le novità che arrivano dal mondo del commercio. Grazie ad Anna Vizzari di Altro Consumo, a Luciano Gagliotti di Confcommercio e tantissimi ascoltatori che volevano dirci a loro, oggi si sono veramente infervorati. Scatenati. Esatto. Direi che posso intanto andare a raccontare l'altro grande tema del momento, che è la giornata di borsa. E poi andiamo di calze. Andiamo di calze, mamma mia, non ci posso neanche pensare di rimetterle, guarda, ma per carità del cielo, a tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Cuore e denari. Verde, ancora una volta verde, è la chiave di volta. Verdi e molto chiacchierate. Sì, anche un po' bruttarelle. Ecco, perché parliamo delle calze di ordinanza delle hostess all'Italia, che fanno discutere a partire dal colore, che a dirla tutta direi un po' impegnativuccio. Ha scomodato pure Massimo Gramellini. E infatti l'abbiamo riportato qualche giorno fa, scriveva: non conosco una sola donna italiana che indosserebbe delle calze verdi se non sotto la minaccia di un plotone di esecuzione. E anche lì, come ultimo desiderio, chiederebbe di sfilarsele. Beh, d'altronde, come dargli torto? Ma non è finita qui, perché oltre che brutte, secondo i sindacati di base sarebbero inadeguate, potrebbero mettere a rischio la circolazione di chi le indossa, dato che le hostess sono sempre per aria, no? Svolgono il loro lavoro in piedi a 11.000 metri. È arrivata naturalmente la replica della compagnia, che rassicura, informa quelle che sono state distribuite gratis, sono a comprensione graduata media. Pensa che dibatti tutto, ma... all'interno di... Ma attenzione, non è finita. Ma si legge sul Corriere della Sera che presso il centro equipaggi di Fiumicino comincerà la distribuzione di calze, comprese le contenitive un pochino più, più spesse. Ah, gliele fanno anche pagare le hostess? Sì, 7 euro. E quindi ognuno un po' ci si compra le calze, no? Ce n'è un po' per tutti i gusti, per tutte le necessità. Un colore solo però, verde, quello non si cambia, così è deciso, punto. Graduata più o meno, per essere sempre garantita, no? Il benessere delle gambe garantito della circolazione, ma verdi devono essere. Allora, e noi come potevamo farci scappare questa notizia? Non sia mai. Che ci dà lo spunto sicuramente di parlare di calze che si indossano, che si sfilano in questo periodo, ma soprattutto di gambe, perché lo abbiamo fatto tante volte nel corso dell'anno, non le abbiamo mai trascurate, figuriamoci se lo facciamo ora, nel momento più critico dell'anno, perché in questi giorni è facile tornare a casa con le gambe gonfie, un po' pesanti, se ha l'impressione di avere le scarpe strette, se avverte una sensazione di pesantezza che può essere accompagnata da un po' di tensione dolorosa, da un pruritino fastidioso. Allora, se vi riconoscete, date un occhio alle vostre gambe. I sandali lasciano un segno quando sfilate i calzini, notate il segno dell'elastico, che è bruttissimo peraltro. Vi abbiamo chiesto di osservarvi anche le caviglie, sono comparsi dei capillari, delle venuzzine, di che colore sono? Mi fermo perché tutte queste domande immagino ce le farà la nostra prossima ospite. Diamo il bentornato alla dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALTA, l'associazione lotta alla trombosi. Buongiorno. Buongiorno, mi siete mancate. Lo sappiamo, guardi, noi siamo creiamo dipendenza. Bene. Ma anche lei a noi, E grazie. Aggiungiamo anche responsabile del Centro di Prevenzione Cardiovascolare di Humanitas. È giusto. Allora, dottoressa, partiamo dalle gambe delle hostess. Posso dire che le trovo bellissime io quelle calze. Le piacciono? Trovo bellissime quelle divise. Questo da donna. Sì, anche le calze verdi. Bellissime le trovo, molto moderne, molto belle. Quello che non va bene è che sono di nylon apparentemente, e quello che non va bene è che le sono vogliamo, leggere. Li vogliamo perché di per seta, 7 euro non credo che siano riusciti a fornire un prodotto che abbia la contenzione corretta. Quindi scriva Massimo Gramellini, penso che lei sia la donna che stava cercando Gramellini. Perché... Scriverei volentieri anche al sindacato, perché trovo che è totalmente irragionevole l'obiezione. Le ragazze che volano le hostess portano già comunque delle orrende calze elastiche, cosiddette da suora, di color tortora o grigiastro, e sono comunque brutte. Le calze elastiche sono indispensabili quando una persona vola, perché aiutano il circolo venoso superficiale delle gambe a non riempirsi, quindi aiutano il sangue a tornare verso il cuore. Non c'è obiezione al fatto che queste ragazze abbiano vantaggio dal fatto di usare la calza elastica. La calza elastica però ha una brutta definizione, perché calza elastica evoca una cosa brutta, un po' vecchia, un po' malata. Invece queste calze possono essere bellissime, oggi ce ne sono colorate di tutti i tipi. Anche verdi. Addirittura fluorescenti ci sono. Orrore. Dottoressa, no, lo so, allora dottoressa Rotavander, lei mi piace molto, ma come gusti di calze direi che non siamo assolutamente in sintonia. Allora, sì. La fermo un secondo, dottoressa Rotavander, perché poi scappano i minuti. Noi ci vogliamo occupare non solo di chi lavora in quota, ma anche di chi ha i piedi per terra, e vorrei lanciare un suggerimento che arriva da un ascoltatore, una sorta di sondaggione. Vi piace la divisa l'Italia? Alcuni ci scrivono già inguardabile, oltre al colore delle calze e le scarpe e l'abbinamento complessivo che fa schifo, ci scrive Girolamo. Voi che cosa ne pensate di calze e dintorni? Dottoressa Rotavander, abbiamo parlato delle hostess. Molti di noi tra poco viaggeranno per prendere, non so, magari aerei per lavoro o per vacanza. Le occasioni si intensificheranno in occasione naturalmente delle vacanze estive. Che cosa è bene sapere prima di affrontare un viaggio aereo per garantire e tutelare il benessere delle nostre gambe? Qui parliamo di una cosa molto seria, l'hanno chiamata sindrome da classe economica, e la possibilità che in persone che sono o predisposte o hanno già avuto episodi di trombosi o di altra malattia cardiovascolare, che sono sovrappeso, che viaggiano in una situazione di costrizione perché in classe economica si sta sempre più scomodi, che viaggiano per un viaggio lungo, che si disidratano durante il viaggio perché non bevono abbastanza, che non si muovono durante il viaggio e magari portano della biancheria stretta, è possibile che ci sia un rallentamento di circolo nelle vene delle gambe, che sono le più lontane dal cuore, e che questo attivi il sistema della coagulazione a formare un trombo. Questo non succede a tutti coloro che viaggiano, per fortuna, ma certo, ci sono alcune persone che sono particolarmente più fragili. Le più fragili sono le donne incinte, sono le donne che portano, che prendono abitualmente degli ormoni di tipo contraccettivo o la terapia ormonale sostitutiva, perché queste sono persone che hanno di per sé un sangue che tende a diventare più denso. Quindi ci sono dei suggerimenti che tutti dovrebbero conoscere, poi sono liberi naturalmente di rispettare, certo, di seguire oppure no. Chi ha già dato e ha già per esempio le vene varicose, oppure ha una gamba che è un po' più gonfia dell'altra già di suo, oppure ha avuto recentemente una malattia importante, magari con febbre, eppure deve viaggiare, sempre ripeto, se il volo è più lungo delle 4 ore, perché statisticamente i voli che durano meno di 4 ore sono meno pericolosi, fra virgolette, queste persone devono stare particolarmente attente, quindi si devono attrezzare prima di mettersi in volo in modo da avere biancheria molto morbida, abbigliamento molto morbido, portarsi l'acqua in modo da potersi idratare durante il volo. Non si è nemmeno capito perché ci sia questa sindrome da classe economica. Si pensa che sia legata in parte alla disidratazione, in parte alla carenza di ossigeno che si verifica in aereo quando l'aereo è alla sua altezza di volo e corrisponde più o meno all'altezza che abbiamo a 2000 metri in montagna, dove la tensione d'ossigeno è più bassa anche se l'aria è più pulita, però di fatto i livelli di ossigenazione dei tessuti sono più scarsi. Quindi è importante sapere qual è la durata del volo, qual è il proprio peso corporeo, dove è distribuito il nostro grasso, perché chi ha la distribuzione del grasso sull'addome ha più rischio di avere un rallentamento di circolo, in che posizione viaggiamo, ricordandoci che abbiamo delle gambe, dei piedi che possiamo contrarre, muovere, ruotare le caviglie, muovere le dita dei piedi in modo da mantenere l'attività muscolare e di fare delle contrazioni muscolari come se volessimo contrarre i polpacci e di idratarci. Queste sono le cose, secondo me, fondamentali che dovrebbero sapere tutti. I consigli prima della partenza. Noi torniamo con i piedi per terra, dottoressa. A proposito, credo che sapere dove teniamo i nostri piedi potrebbe rivelarsi molto utile anche a lei, che oggi ha il compito di aiutarci a preservare o a recuperare il benessere delle nostre gambe. C'è chi sta a lungo coi piedi ben appoggiati, penso alle commesse, agli insegnanti, ai chirurghi, ai controllori, e chi invece li tiene un po' in ordine sparso, no? Guardate un po' dove li sta tenendo magari il vostro collega, o fate cadere l'occhio sui vostri, dove sono in questo momento. Allora, dottoressa, in alcuni casi, dopo essere stati a lungo in piedi o seduti, le nostre gambe, i nostri piedi si addormentano, li sentiamo un po' strani, formicolano, e pensiamo subito che sia un problema di circolazione. Vero o falso? Beh, lo è, qualche volta lo è, perché quando noi accavalliamo le gambe, per esempio, che è una posizione molto abituale, molto frequente sia negli uomini che nelle donne, possiamo comprimere delle terminazioni nervose che passano dietro al ginocchio, e quindi questo può provocare un'irritazione temporanea del nervo. Di solito questo si risolve rimettendo le gambe in una posizione diversa e agitando, cioè contraendo la muscolatura o massaggiandosi le gambe, e questo passa. Quindi o è un problema circolatorio perché abbiamo schiacciato una vena temporaneamente, oppure è un problema legato alla terminazione nervosa. Qualche volta questo succede a coloro che soffrono di schiena, per esempio, o a coloro che soffrono della sindrome delle gambe senza riposo, che è questa agitazione notturna delle gambe, che pare dipendere anche questa da una irritazione delle terminazioni nervose che escono dalla colonna vertebrale e vanno a innervare le gambe. Qualche volta è una mancanza di potassio. La mancanza di potassio la si risolve di solito abbastanza facilmente mangiando una banana, se la si ha sotto mano, oppure prendendo una bustina di un integratore a base di potassio. Il momento banana. Allora, adesso invece è arrivato il momento di sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme, perché osserveremo le nostre gambe. Intanto raccontateci che segnali vi mandano, se le sentite pesanti, se avvertite questo senso di... Perché a volte abbiamo solo la sensazione che le nostre gambe non stiano bene, e non sappiamo se è reale oppure solamente una sensazione così apparente. Allora oggi, insieme alla dottoressa Rota Wender, cercheremo di vederci più chiaro e soprattutto di osservare le vostre le gambe. E notate delle vene magari un pochino più in rilievo? Utilizzate magari la bici perché siete degli sportivi? Tra poco, tutti i consigli per voi. Cuore e denari. Volare. Oh. Ci siamo occupati delle gambe delle hostess in volo, prendendo spunto dalla loro divisa, dei Colan Verdi, che una bella piacciono serie di prese di posizione, sì. No, piacciono alla dottoressa Lidia Rota Wender, che la prossima volta che verrà in studio le indosserà per noi, vero dottoressa? Certo. Anche la divisa rossa. Anche la divisa. Arrivano tanti messaggi. Sì, sì, poi ci sono ovviamente molti ascoltatori che dicono comunque le donne sono tutte belle, a prescindere da quello che indossano. Per qualcuno con quelle calze verdi sembrano lucertole, c'è chi ne fa addirittura una questione legata all'origine della compagnia che ha acquisito Alitalia, un dibattito che lascerei già immediatamente perdere. Insomma, i colori sono quelli e qualcuno preferisce i colori e le divise di altre compagnie. Un bel dibattito stamattina. Allora, noi torniamo alle nostre gambe. Che cosa ci raccontano? Spesso alla sera abbiamo la sensazione che siano gonfie, pesanti, stanche. Non è un problema solo femminile, e a volte non è una sensazione. A volte le gambe formicolano, prudono, si arrossano, tanti sintomi, per fortuna non sempre tutti presenti insieme, ma alcuni sono più importanti dal punto di vista clinico di altro. Allora, dottoressa Rota Wender, le do a disposizione tre colori, rimaniamo in tema: verde, arancione e rosso. Abbina ad ogni sintomo il colore adatto, in modo da farci capire subito se il disturbo che avvertiamo richiede solo qualche piccola attenzione. Le gambe, no? Quando arriviamo a casa ci togliamo le scarpe e appoggiamo le gambe in alto, oppure facciamo un po' di stretching, oppure è meglio parlarne con il nostro medico di famiglia. Allora, vado? Sì. Senso di pesantezza alle gambe e formicoli, verde, arancione o rosso? Allora, se in tutte e due le gambe, arancione, attenzione a come stiamo in piedi, a come stiamo seduti, ridurre il grasso sulle cosce o sull'addome e fare massaggi, se possiamo, anche del linfodrenaggio. Gonfiore, specie alla fine di una giornata in cui siamo state a lungo in piedi o tante ore sedute? Se è una gamba sola, rosso. Se sono tutte e due le gambe, arancione. Prurito o dolore simile ai crampi, soprattutto di notte? Arancione, potrebbe essere una mancanza di potassio, quello che dicevo, la sindrome delle gambe senza riposo, e soprattutto se accade su ambedue le gambe. Capillari, apriamo una grande parentesi, dobbiamo dirle anche il colore o fa la differenza e la localizzazione? Io sono troppo generica? I capillari sono sempre un po' bluastri, un po' rossastri, sono ragnatela di solito, sono proprio brutti da vedere, sono un problema estetico. Molto spesso sono un problema soltanto estetico. Qua io andrei, non penserei a una malattia, ma penserei soprattutto a una fragilità delle pareti e delle vene. Non c'è molto che si possa fare se non aiutarsi. Adesso è una stagione meravigliosa, frutti rossi, tutti gli antiossidanti presi in modo naturale, non necessariamente con gli integratori. Quindi dal gioco del semaforo verde, ecco, verde. Questo sì, verde. Mi sembra capillare verde, mi sembra di aver capito che se stanchezza gonfiora le caviglie scompaiono con il riposo e sono solamente in una gamba sola, dobbiamo puntare sulla prevenzione. E lei sempre, ci suggerirà, è sempre importante che se sono colpite tutte e due le gambe, dunque, ogni tanto le reazioni del nostro corpo sono reazioni che cercano di reagire a qualcosa che non andava bene nei minuti precedenti, quindi non è che ci dobbiamo sempre spaventare per un sintomo transitorio, questo è molto importante. Quando il sintomo compare su una gamba sola, può essere più può, non è detto che lo sia, più importante che non quando compare su due gambe. Quando il gonfiore è su ambedue le gambe e persiste nel tempo, quindi dovremmo calcolare se su tutte e due o su una sola, quanto intenso è e per quanto tempo dura, perché un dolore che persiste è un dolore che non può essere trascurato se dura qualche ora, un dolore che ricompare periodicamente non può essere trascurato, può essere la schiena, può essere l'anca, può essere il ginocchio, un dolore che invece capita per caso non deve essere sopravvalutato. Quindi possiamo prenderlo un pochino sotto gamba, è proprio sotto la gamba. Allora, che battutona. Senza battutona. Allora, sono una ragazza. Sì, sì. Avevate pensato che lo dicessi di me? No, avete no. Detto? Vabbè. Sono una ragazza che ha da poco scoperto di essere incinta. Ho notato di avere delle piccole venuzze in rilievo in corrispondenza dei polpacci. So che mia nonna soffre di vene varicose. Devo preoccuparmi? Dottoressa. Allora, qui sono molto categorica. Sì. Le donne in gravidanza hanno il diritto di portare le calze elastiche. E apro una parentesi, le calze elastiche non sono solo brutte. Esistono autoreggenti con il pizzo, sono molto sexy, devono essere di compressione di prima classe e devono essere opache, di cotone o di microfibra. Tutte le donne in gravidanza dovrebbero per tutta la gravidanza e per almeno 2 mesi, 3 mesi dopo il parto portare le calze elastiche. Sembra una cattiveria, non lo è, aiuta il circolo venoso a far tornare il sangue verso il cuore, sono fondamentali, l'FDA americana ha detto che le donne in gravidanza hanno il diritto di portare le calze elastiche, quindi che questa ragazza metta le calze elastiche subito, da subito, anche se fa caldo, tanto la maggior parte del tempo stiamo comunque in ambienti condizionati. Allora, dalle gambe della nostra ascoltatrice, a cui naturalmente facciamo gli auguri di cuore, Denari, esatto. Poi ci racconti, buttiamo anche l'occhio sulle gambe degli sportivi, belle, sono toniche, muscolose, ma a volte si notano delle vene evidenti, anche un po' stortignacole, tortuose. Dottoressa Rotavender, come mai? Perché quando un muscolo deve ingrandirsi, ingrossarsi, perché noi lo esercitiamo, è un muscolo che ha bisogno di essere nutrito, quindi gli arriva più sangue, lo stesso sangue che poi deve ritornare una volta che ha ceduto l'ossigeno attraverso l'arteria, deve tornare verso il cuore con le vene. Le gambe e le braccia, il fisico degli sportivi è molto asciutto perché noi consumiamo il grasso che abbiamo sopra i muscoli che facciamo lavorare. E questo, per esempio, è un buon suggerimento per chi ha, donna, un po' di grasso sulle cosce e vuole affrontare l'estate invece mettendosi un costume da bagno. La bicicletta è l'esercizio più straordinario che ci sia per mantenere le gambe in forma. Le vene degli sportivi, che diventano un po' più superficiali, un po' più appariscenti, sono però vene di solito... possono essere un po' tortuose, ma sono piuttosto toniche, sono perché si capisce benissimo guardandole che aumentano la portata del sangue, quindi sono normali così. Allora, suggerimenti e consigli per restare in gamba in chiusura, gli ultimi due minuti, le quattro regole, io ho detto quattro, ma lei può darcene cinque o tre, della prevenzione. In generale, il grasso. Attenzione al grasso, grasso sull'addome uguale rallentamento del ritorno del sangue al cuore, non va bene per le gambe, non va bene per tutto il resto. Neanche per il cuore. Non va bene, sì, non va bene. L'idratazione, dobbiamo ricordarci di bere, perché quanto più beviamo, acqua, povera di sale possibilmente, perché quanto più beviamo lontano dai pasti, a piccoli sorsi, non mezzo litro per volta, questo ci aiuta a far funzionare meglio il filtro renale e a far funzionare più facilmente tutti gli organi del corpo. Le contrazioni muscolari, la maggior parte di noi fa un lavoro sedentario, voi fate un lavoro sedentario, quando siamo seduti dovremmo ricordarci di avere le gambe, quindi ogni tanto fare delle contrazioni dei polpacci e delle rotazioni della caviglia. E di un donne, cuore nei piedi. Dobbiamo mettere un po' di testa nei piedi. Ecco. Le donne, perché sono le donne che hanno più rischio? Perché le donne hanno delle situazioni di rischio più frequenti rispetto agli uomini, quindi le varici sono non solo, ma più frequenti nelle donne, la terapia ormonale la prendono più frequentemente le donne, la gravidanza è peculiare della donna, credo che sia importante dare un'occhiata allo specchio, vedere come siamo fatti, non sopravvalutare i sintomi, ma non sottovalutare quelli che sono un po' speciali. Si trovano informazioni sul sito dell'ALT, si trovano informazioni a cui vi rimandiamo, mettiamo i nostri link e grazie alla dottoressa Lidia Rottavender, la salutiamo, la ringraziamo, noi come sempre torniamo domani in gamba assolutamente, buona giornata a tutti.